Sfondi la tua vita, è rivolta da becchi, puoi trovare ancora molto a scoprire dentro te. Fai così, fai così, fai così, fai così. Da da da da da da.